You, la formazione dei Toto, con un lungo annuncio in precedenza del loro chitarrista Steve Lukather, che ho incontrato proprio venerdì. Allora, settimana prossima è l'ultima settimana, no? Ormai lo sappiamo, da lunedì 26 a venerdì 30. La prossima settimana, praticamente il pomeriggio e anche nella sera, sarà caratterizzata da alcuni artisti che ci verranno a trovare qua dal vivo, o altri artisti che abbiamo incontrato nei giorni già precedenti, o altri che abbiamo incontrato telefonicamente perché abitano, e sto parlando di artisti stranieri, da tutt'altra parte del mondo. E così, visto che tra un paio di brani abbiamo anche la PFM, sarà ospite la PFM martedì 27 alle 9, saranno qua nei nostri studi e quasi la maggior parte di questi artisti suoneranno dal vivo, ok? Quindi anche la PFM sarà qua live con delle canzoni, così come è successo ad esempio ieri sera con Bernardo Lanzetti, già ex componente della PFM, che ha suonato anche un paio di brani. La prossima settimana avremo, che so, lunedì pomeriggio ci saranno Bugo, ci saranno i Pancras, i Styles, ci sarà la Travis Blues Band di Fabio Travis, i Zen Circus, le Kiss Sexy, eccetera. Poi, detti così a caso, troverete Pino Scotto, Lacuna Coi, Linea 77, Giulio Casale, ancora Cristina Donà, Iva Lanzasca, Movida, Rezofonic, la PFM, ne abbiamo già detto. Potrebbe conto di far arrivare anche Glenn Hughes il giorno del suo show qua a Milano, cioè martedì 27. In più avremo altri contributi con Steve Lukather dei Toto, Candice Night di Black Moose Night, Piero Pelù, ancora i Tre Allegri Ragazzi Morti, Baustel, John Lord dei Deep Purple, Bob Daisley, che abbiamo raggiunto telefonicamente a Sydney, dove vive. Bob Daisley ha già suonato con Rainbow, Ozzy Osbourne, Heap, Gary Moore e un sacco di altre band. Questi sono praticamente una parte di tutti gli artisti che o abbiamo registrato telefonicamente, ripeto, nei nostri studi, oppure saranno qua dal vivo a partire dal prossimo lunedì 26. Allora continuiamo tutto questo anche perché dopo gli Stones con Honky Tonk Women abbiamo proprio la PFM, che martedì prossimo sarà qua con noi dal vivo. E dopo la PFM chiuderemo con le Heart. disponibile il catalogo primavera Negative. 132 pagine con il merchandise ufficiale delle tue band preferite, CD, DVD ed altri gadget. È gratis. Richiedilo su www.negative.it. Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no. È sveglia, mi guarda, non so. Già l'odore della terra, odor di grano, sale adagio verso me. E la vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia, penso a te. Quanto verde tutto intorno, ancor più in là, sembra quasi un mare l'erba. E leggero il mio pensiero vola e va, ho quasi paura che si fermo come me. Faccio un passo, lui mi vede, è già fuggito. Respiro la nebbia, penso a te. Thank you. Love to You, la formazione chiamata Heart. 3 minuti esatti dalle ore 10 arriveremo con un altro compleanno. Componente dei Mr. Mister si chiama Steve George, nasce il 20 maggio del 55. Il compleanno del giorno. I know the message my heart is sending, but you don't read it, you keep me guessing. Is it love, is it love we're after? Is it love, is it love? The broken record goes round and round in a circle without a sound. I'm underwater in overdrive. You hide in laughter, but what's on your mind?